Radio 24 presenta Platone, la caverna dell'informazione di Leonardo Manera. Sabato 2 luglio, cominciamo bene, però nel migliore dei modi, subito sbagliando mese. Sabato 2 agosto 2014, voi probabilmente siete già sulle spiagge a godervi il mare, insomma, di questo tempo che adesso va via via migliorando, e noi invece siamo qui a Radio 24 per Platone, la caverna delle informazioni, insieme ad Alessandro Milan. Eccoci qui, siamo al 2 agosto. Agosto. Siamo al 2 agosto, perché siamo qui invece di essere altrove? Perché? Ecco, questa è una domanda molto filosofica alla quale Platone risponderebbe come, caro Leonardo? Quanto perché vorrei pagano? Essere lì con voi. Ecco, ecco, anche noi vorremmo essere con te, ma invece non ci siamo. Siamo qui, io e Alessandro Milan, due uomini soli, soli almeno in studio, insomma, speriamo fuori di trovare delle donne che ci chiedono l'autografo, ci chiedono fotografie, ci chiedono anche dei rapporti umani, ecco, non dico altro. Ecco, punto, fermiamoci qui. Rapporti umani che sono sempre benvenuti. Allora, no, in realtà noi siamo qui anche un po' per giocare sulle notizie, su quelle vere che ci dà Alessandro Milan, e poi anche su quelle altre cose che noi ci inventiamo un po' per giocare appunto sull'informazione. Però, appunto, siamo al 2 di agosto e quindi c'è un articolo di che giornale, Del giornale, di recente. È un articolo nel quale ci raccontano come essere felici, liberarsi del pessimismo e vivere contenti. È un tema universale questo, la ricerca della felicità. Esatto, esatto. Solo che, vedi Leonardo, io capisco il tema molto profondo, ma poi quando si inventano questi test per misurare la gioia... Vediamo. Per esempio, ti faccio una domanda. Qual è il tuo piatto forte per una cenetta romantica? Tu devi rispondere uno di queste tre per capire, vediamo poi il felici test. A. Una fonduta di cioccolato dove immergere spiedini di frutta. B. Un couscous da mangiare secondo tradizione con le mani. O C. Un piatto unico e equilibrato con ingredienti DOP a chilometro zero. Ma come si fa rispondendo a una di queste domande a capire se sei felice? Mi sembra una vaccata. Io risponderei tendenzialmente la prima. Quanti punti la mi danno? La fonduta di cioccolato. So. Allora non no, ecco, fai le domande. Attenzione, no, se è la prevalenza di A, quindi tu hai risposto A, piacere dei sensi, senso dell'atto. Fammene un'altra. Oppure, qual è l'elemento più importante del viso di una donna? Attenzione, ho detto del viso. Ho capito, non pensavo ad altro. Le rughe di espressione. Mm-hmm. Questa è la risposta. Oppure B, la bocca. Occhio, occhio. È bello che lui ha sempre idea che è una specie di maniaco sessuale. Ma dai, no! Io sono qui. Oppure C, gli occhi perché fanno da radar per gli occhi tutte perché fanno da radar le situazioni sociali. Ma sì, diciamo gli occhi, eccolo lì, perché se rispondevi B, allora la prevalenza di C. Sì, l'attenzione all'altro. Bravo, sei uno attento all'altro. Ma io non ho prevalenza, nel senso che ne ho fatte due, sei tu che mi dai così dei risultati assolutamente inattendibili. Però sono quei test che si fanno d'estate. Tra l'altro sai che per gli antichi greci la felicità invece era una virtù ed era un dono divino, un dono divino. Vedi. Per gli antichi romani invece la felicità stava nel denaro e il suo simbolo era un fallo maschile eretto, lo sai? Simbolo della felicità, no, per gli antichi romani. Sto ascoltando con grande attenzione. È vero, la verità. Attenzione. Oggi ci accontentiamo di cose più semplici, per esempio potrebbe essere la felicità avere il telefonino che prende dove per gli altri non c'è campo. Esatto, o vedere il Milan vincere una partita ogni tanto. Questo è un problema comune, anch'io sono milanista, però noi vogliamo parlare di temi estivi con un ospite che abbiamo al telefono ed è Michele Foresta, in arte il Mago Forest. Ci sei Michele? Ciao Leonardo, certo che ci sono. Ci sono soprattutto per capire se era vero che tu lavoravi lì a Radio 24. Allora è vero, tutto regolare. Questo non l'ho ancora capito. So che sto facendo queste puntate, ma non so se saranno pagate. Io mi auguro di sì, perché ho visto che il pagamento è a 60 giorni. 60.000 giorni, 60.000 giorni, la nuova tendenza. Però insomma, intanto siamo qui, non avendo ad andare in vacanza, stiamo qui negli studi di Radio 24. E ti abbiamo chiesto, come i nostri ospiti telefonici, di commentare qualche notizia che li ha colpiti particolarmente della settimana. È capitato anche a te, tu hai letto, so che hai fatto una lettura approfondita dei giornali per la prima volta, devo dire, probabilmente. Io sono qui al mare, caspita, ho fatto la prova costume e mi vanno bene solo le ciabatte, Leonardo, quindi mi sono chiuso in casa a fare questa ricerca di notizie, che poi sono sempre le stesse che girano a rullo in tutti e tre i giornali, nei giornali. Allora, la prima è di questa ragazza che si è inventato un nuovo mestiere, no? Sai, si è inventata... lei offre coccole. Ah, è una cosa interessante. Cioè, in cosa consiste? Sì, così, lei per sole 60 euro l'ora offre delle coccole, tu vai da lei, l'abbracci, capito? L'abbracci davanti, l'abbracci dietro, abbracci e va, coccole. Però, coccole, senza consumare, si ferma lì. Ma hai sentito sta parola coccole? Sì, l'ho sentita, ma quindi non si consuma, si rimane lì alle coccole. No, e questo secondo me è un effetto della crisi, no? Certo. Si scendono i consumi, esatto. E si consumano meno anche i rapporti, chiamiamoli sessuali. Quindi all'uomo oggi basta anche solo avere un abbraccio, le coccole, capito? Ecco, se continuiamo di questo passo, secondo me ci basterà fra un po' solo l'occhiolino, no? Una frizzatina d'occhio, pagheremo per questo, oppure per una stretta di mano, oppure pagheremo uno che ci saluta da lontano, eccetera, eccetera. Dove opera questa ragazza? Dove lavora? Ma lei si sta estendendo questo mese, per adesso è solo in America, sta ragazza si è inventato questo coso. Speriamo che sta moda arrivi anche presto. Ma sì, se no lo potrei fare io, anch'io potrei offrire le mie coccole, vediamo se c'è qualcuno disposto a darmi 60 euro per quello. Secondo me qualcuno... Secondo me, Leonardo, meglio che trovi altri... Bene. Non avrà successo. Come sono andato come prima notizia? Ma direi un 6,5, via. 6,5, beh, c'è un'altra, sai, la terra dei fuochi, non quella in Campania, ma in Sicilia. In Sicilia, Caronia, se non sbaglio, si chiama. Esatto, Caronia, provincia di Messina, scaturiscono dei fuochi, no, così per autocombustione, nessuno si spiega il motivo, come mai a un certo punto si appiccano dei fuocherelli. Tra l'altro sembra che, insomma, di tutto vada a fuoco, elettrodomestici, televisori, anche i materassi, se non sbaglio, no? Esatto, soprattutto, e nessuno se ne ha spiegato, non ha chiesto a ingegneri elettrici, elettronici, esperti, fisici, professionisti, nessuno ha una spiegazione per questo fenomeno. Però io ho fatto dei miei studi e visto che andare a fuoco sono spesso televisori, materassi, forni a microonde, c'è un minimo comunicatore comune a queste cose, e sapete chi è? Chi è? È Mastrotta. Perché Giorgio Mastrotta è il denominatore comune? Sì, perché Mastrotta appare nei televisori, vende i materassi, a chi li compra regala forni a microonde, quindi secondo me è un segnale degli alieni, no? Che vogliono Mastrotta come imperatore della galassia. Ho capito. Perché in effetti si dice, Caronia, che potrebbero essere gli alieni che provocano questi fenomeni. Ma sono gli alieni. Sono gli alieni, tu ne sei sicuro? Io una volta sono stato rapito da degli UFO, quindi ti posso dire che loro ragionano in questa maniera. Quindi questa è la seconda notizia. E siccome sono un 3x2 oggi, ce n'ho anche una terza, che è una notizia che ci ha veramente fracassato ormai tutto qua. Il caso Tavecchio, no? Il povero Tavecchio. A me fa quasi un po' tenerezza Tavecchio, devo dire, perché adesso ogni volta che cerca di riparare peggiora la situazione. È vero. Lui ha lasciato mai tutte queste dichiarazioni così di stampo razzistico, dove diceva che calciatori africani arrivano in Italia, mentre in Inghilterra che vengono selezionati per i crieceri, in Italia mangiano banane e poi sono titolari. Esatto, mangiano banane e poi sono titolari da qualche parte. Beh, allora lui, per colpa di queste sue dichiarazioni razzistiche, forse perderà la candidatura a presidente della Federcalcio, però non tutti i mali vengono per nuocere, perché... Perché? Perché la Lega Nord, visto questa dichiarazione sempre di stampo razzistico, gli ha offerto la candidatura come prossimo loro leader alle prossime elezioni. Hai visto che magari è una mossa di Tavecchio, dice, vabbè, la Federcalcio, però essere deputato o segretario della Lega Nord potrebbe anche averlo fatto consapevolmente, cosa dici tu? Può essere, ragazzi, noi dobbiamo starci, non ci meravigliamo più di niente. Bene. Ultima notizia invece in fondo, ha saputo di Laura Pausini? Sì, Laura Pausini che ha mostrato le sue grazie. Sì, per sbaglio, in un concerto si è aperto la vestaglia, l'impermeabile, ha mostrato, diciamo, la patatina. Si vede che finalmente Marco è tornato. E Marco se n'è andato e non ritornerà. Hai capito? Il treno delle 7:30 senza lui. È tornato Marco finalmente. E quindi salutiamo anche Laura Pausini, di cui so che tu sei anche innamorato. Sarà una brutta notizia per te che Marco è tornato. bruttissima, però vabbè, dai. Se ci dobbiamo fermare davanti a questo, allora il mondo sarebbe questo. Si prova sempre e si riprova per tutta la vita. Grazie Michele per essere stato con noi. Grazie a te, buona giornata. Ciao, buona giornata, ciao. Questo era Michele Forest, appunto in arte Mr. Forest, che è stato con noi qui a Platone. Però Alessandro Milan, l'estate è anche il periodo, la stagione delle mostre, degli spettacoli, dei concerti, della cultura in generale. Esatto, esatto. A questo proposito, c'è uno Sgarbi che sta facendo uno dei suoi ultimi show, perché ha ricevuto un incarico per l'Expo da parte del governatore della Lega Maroni qui in Lombardia, e ha deciso di proporre di portare i bronzi di Riace, che sono a Reggio Calabria, per l'Expo, portarli a Milano, perché ha detto ma lì non servono a molto, non incassano. Ovviamente si sta scontrando con tutti i sindaci anche della zona, e lui ha risposto pacatamente, ha detto 'ndranghetisti. Vabbè, comunque io dico, l'idea di fondo io la condivido, insomma. Cioè, di portare i bronzi di Riace in tour. Ma sì, un po' il tour di Riace. Il tour di Riace, i bronzi in tour. Perché? Perché no? Invece appunto di portare Laura Pausini, che già va di suo in tour, facciamo conoscere anche queste cose. I bronzi di Riace. Che sono nudi anche loro, tra l'altro. Esatto. Neanche loro portano le mutandine. È vero, come Laura Pausini. Però se ne parla meno. Allora facciamo parlare un po' anche delle... Sono un po' più plastici nella loro esposizione. Però noi per parlare di cultura abbiamo l'assessore di una piccola cittadina che ha assunto un'iniziativa particolare. Questa cittadina si chiama Gottarello. Diamo il benvenuto all'assessore Birolli. Buongiorno, anch'io voglio dare il benvenuto a voi e a tutti quelli che ci ascoltano. A dire la verità non capisco che ci stanno a fare quelli che vi ascoltano. Io preferisco comunque radio come radio, ma se proprio non c'è niente meglio da fare o volete ascoltare Radio 24, fatelo pure. Allora, grazie per i complimenti. Comunque, assessore, voi nella vostra città, Gottarello, sì, avete assunto un'iniziativa particolare. Qual è? Questa iniziativa che abbiamo assunto, come dice lei, a Gottarello abbiamo abolito l'assessorato alla cultura, perché parlare di cultura oggi è discriminatorio, perché ci stanno quelli che ce l'hanno, ma anche quelli che non ce l'hanno. E poi la cultura cos'è? È un'apostrofo rosa tra le parole, ma so sfracicato i maroni. Oh. Perciò noi a Gottarello avevamo abolito l'assessorato alla cultura e avevamo introdotto l'assessorato al passatempo. Perché avete introdotto questo assessorato al passatempo? Perché ai passatempi ci si dedicano tutti più volentieri, sì o no? Vabbè, quindi voi con l'assessorato al passatempo cosa organizzate? Organizziamo un po' di tutto. Per esempio, il mese prossimo... Per esempio, ci doveva star festival della poesia ermetica, ecco, che la poesia che non si capisce un cazzo, diciamolo. Mm. Ecco, te mettono lì due parole al significato profondo, intrinseco, ci devi arrivare tu. Beh, io questo non lo trovo giusto, perché se sei pagato per scrivere le poesie, oh, ma te vuoi svegliare, datte da fa, mettici qualche parola in più, fammi capire, perché se metti solo due parole, poi te pagano lo stesso... Secondo me stai a rubare i sordi, sì o no? Non lo so, lo dice lei. E in tempi di spendere review, come si dice, non mi sembra una cosa retta, sì o no? E allora cosa avete fatto? Abbiamo abolito il festival della poesia ermetica e l'avevamo sostituito col festival delle copertine di Novella 2000. Ci abbiamo messo tutte le copertine più intriganti di Novella 2000 dal 2000 ad oggi. Ci stanno pure tutti da Melissa Satta, che prima si faceva Bomba da Vieri e poi da Boateng, fino a tutti i protagonisti del Grande Fratello dei Tempi d'Oro. Pensi che bella cosa che abbiamo fatto, che... Oh, non ci crederai, ma ci avevamo molte più prenotazioni di quelli che ci avevano prenotato per venire a vedere Poesie Ermetiche, di quegli stronzi dei poeti. Ho capito, va bene. Come l'avete chiamata questa mostra di copertini Novella 2000? L'abbiamo chiamata L'ermetismo del culo. Grazie all'assessore Birolli. Grazie a voi, se vuole gli tengo un posto, ma faccia presto che siamo esauriti. Va bene, grazie. Grazie a voi. L'assessore Birolli sempre presente, noi invece ci fermiamo per il traffico e riprendiamo subito dopo con le telefonate agli ascoltatori. Donna, sei anziana e per te il colore di capelli è diventato un problema? Hai la chioma completamente bianca e non ti senti a tuo agio quando vai a ballare il liscio? Allora prova la tintura per capelli Bellugi. Semplice da applicare con la spazzola da scarpe. Ricopri i tuoi capelli con un colore naturale che va dal rosa barocco leccese al blu decline, ma è disponibile in tutto il Pantone. Tintura per capelli Bellugi. Densa, compatta, solida. Ridà ai tuoi capelli la densità desiderata da tempo, accompagnandoti immutabile fino al giorno dell'estrema unzione. Tintura per capelli Bellugi. Per un colore e uno spessore di capelli mai visto prima. Tintura di capelli Bellugi. Consigliata anche dai migliori coiffeurs de Paris. C'est magnifique. Platone, la caverna dell'informazione. Bentornati a Platone, la caverna dell'informazione. Io sono sempre Leonardo Manera. Tra poco ci saranno anche le telefonate degli ascoltatori, ma prima è venuto a trovarci in studio Diego Parasole. Buongiorno Diego. Buongiorno Leonardo, buongiorno. Allora, tu eri già presente la scorsa puntata e ti abbiamo chiesto di scegliere un argomento a caso, insomma, che riguardi l'Italia, ecco, anche se siamo in estate, in agosto, però insomma l'Italia continua ad andare avanti con i problemi di sempre. Esatto, si vedi parlamentari, deputati, soprattutto senatori, che discutono, dibattono mentre il PIL italiano continua a non salire o a decrescere a seconda dei giorni, mentre il debito pubblico invece quello sì continua a salire, tanto che adesso credo che siamo, io non ho consultato i giornali in questi giorni, cioè i dati esatti insomma in questi giorni, ma siamo a un debito pubblico di circa 33-34 mila euro a testa, caspita. Forse anche di più, tutti compresi i bambini, i neonati nascono già coi debiti, tanto che l'altro giorno mio amico mi ha detto: sa, mio figlio piange tutta la notte. Ho detto: cacchio, coi debiti che c'ha la sua età piangerei anch'io. Certo. E l'unica cosa che cresce veramente in Italia in questo periodo, lo continuano a dire i dati purtroppo, è la disoccupazione. La disoccupazione cresce sempre, nonostante gli annunci di Renzi non se ne viene fuori. Insomma, non se ne viene problema. Fuori, e io avrei un'idea per rilanciare l'economia. Sentiamo la ricetta di Diego Parasole per rilanciare l'economia. Assolutamente. Però stavo notando questo: oramai in Italia non si produce quasi più niente, no? Producono tutto in Cina, spesso producono anche delle cose non di grandissima qualità. Tempo fa ho comprato un tostapane, dopo due giorni era rotto. Cioè, una volta un tostapane ti durava 20 anni, oggi ti dura meno del pane che ci hai appena tostato. Sì. Se prendi una candela cinese, mi è capitato un po' di giorni fa, è durata meno del fiammifero con cui l'hai acceso, no? Per cui mi sono detto, producono tutto in Cina. Le cose che noi compriamo si rompono in un attimo, quindi le ricompriamo dai cinesi, e mi sono accorto che in Italia non si produce veramente più niente. Ho pensato a mio nipote, voglio regalare qualcosa di italiano, e non ho trovato niente, cioè non so, la PlayStation, l'iPod, tutte queste cose qui sono fatte all'estero. Ho provato a cercare un telefonino fatto in Italia, mi hanno detto dei tempi di Marconi e Meucci che non se ne fanno più. Alla fine mi è toccato regalargli una bottiglia di Barbera. Quello si fa. Sì, però mio nipote ha 8 anni. Allora, ho fatto questo ragionamento. Visto che l'unica cosa che è rimasta prodotta in Italia sono i disoccupati e i politici. Vabbè, coi disoccupati hanno già i loro problemi, non me la sento di prenderla. Però la mia idea sarebbe: mandiamo i politici italiani in Cina. Tempo 2 anni fanno crollare l'economia cinese e noi si riprende a riprodurre le cose qua. E questa è la ricetta di Diego Parasole per rilanciare l'economia italiana da Radio 24, la radio della Confindustria. Grazie Diego e arrivederci alla prossima puntata. Ciao! Hai visto che qui facciamo cultura qui Mamma a Radio 24. È molta cultura. So che a questo punto tu hai voglia di cambiare Assolutamente. Argomento. Assolutamente, parliamo di una cosa allegra, il lavoro. Il lavoro. Il lavoro dopo la Disakis. Esatto, ci sta benissimo. No, purtroppo quando si parla di lavoro, Leonardo, come sai, si parla solo di notizie negative. La CISL di recente ha raccontato in un rapporto che c'è il rischio di una previsione di 130.000 posti di lavoro da perdere con l'autunno che arriva, che sommati ai 900.000 che sono già persi nel corso del 2013, fai un po' conto te. Ma Renzi non aveva promesso, io non lo so, non la ricordo cosa aveva promesso. Jobs Act. Ma questo avrebbe dovuto portare dei nuovi posti di lavoro oppure... Beh certo, in teoria si fa la riforma del lavoro nella speranza di crearne di posti di lavoro nuovi, però questo Jobs Act per il momento... Produce 130.000... No, per il momento è rimandato, non si sa. Peraltro anche la CGIL ha fatto sapere che siamo tra i paesi con la percentuale più alta di... popolazione inattiva, siamo al 44% di italiani inattivi. Dipende, cioè, cosa si intende. Sono studenti, pensionati, tutti, casalinghe, cioè persone che non lavorano. Tu ti reputi attivo o inattivo? Io mi reputo attivo a giorni, a giorni alterni. Io diciamo. Quasi mai. Il sabato e la domenica sono, se possibile, inattivissimo. Ma io anche quando lavoro mi reputo inattivo, diciamo. Quello sarebbe il massimo, essere pagato per essere inattivi. Quindi andiamo a vedere se c'è qualche nostro ascoltatore che ha qualcosa da dire riguardo al lavoro, insomma, vediamo. Esatto, la tematica del lavoro. Pronto, buongiorno. Chiaro, parecchio. L'ho già riconosciuto. Sono Alessandro Milan, buongiorno. Ancora Alessandro Milan, ma è possibile che ogni volta che telefono a Radio 24 ti trovo sempre? Sì. Cosa fai? Vivi a Radio 24? Non... Più o meno. Non riesci un po' a liberare anche gli studi della tua presenza, Milan? Ma guardi che in effetti adesso... Battista, come sta? Buongiorno. Sì, quello che fa la segna stampa, sono mattina. Io. Sì, sì. Non ti ascolto mai, Milan. Ecco. Capisci? Ho capito. E io prima ero agente di commercio, no? Poi adesso invece ho deciso anche di cambiare completamente, sono andato a produrre in prima persona all'estero, perché in Italia le tasse ti soffoca, capisci Milan? Sì, e questo effettivamente è vero. E poi non sai mai, questi qua delle tasse te li trovi dappertutto, sì. Pretendono anche che quando lavori fai la fattura, Milan! No, ma come? Ma certo, il minimo la fattura! Io la fattura la faccio solo quando sono circondato da almeno 10 aziende a guardia di finanza, Milan, capisci? Ah, proprio disperato! Controllano anche fuori dai bar se il barista ti ha fatto lo scontrino, sì. Che adesso i bar sono tutti dei cinesi. Non ho niente contro i cinesi, ma i cinesi non fanno certificato di morte quando muoiono i parenti, figurati se fanno lo scontrino al bar, Milan, capisci? Vabbè, dai, leggende queste. Chiedi scontrini, che poi gli ecologisti si lamentano che viene disboscata l'Amazzonia. Allora bisogna mettersi d'accordo, o si fanno gli scontrini o si salva l'Amazzonia, capisci Milan? Insomma. Non puoi continuare a fare gli scontrini che continua a disboscare le piante. Sì. Non si può avere la botte piena e la moglie incinta, capisci Milan? Non era proprio così, comunque vabbè. Bisogna preservare l'Amazzonia, no? Sì, come no? Ma cosa c'entra gli scontrini però adesso? Perché se continua a fare scontrini, continua a disboscare gli alberi per fare scontrini, no? Vabbè, tra l'altro l'Amazzonia deve essere un posto pieno di carte. L'Amazzonia, capisci Milan? E poi le tasse, lasciami dire a cosa serve. A cosa? Serve a mantenere i politici, quelli della casta. Come no, quello che adesso non si vede neanche più, Di Pietro che fa il politico. Ma quando sbaglia, quando parla sbagli i congiuntivi. Che se io, Milan, lasciami parlare. Sì, parli. No, io uno che sbaglia i congiuntivi non lo voterei, neanche se sarei morto, capisci? Ah, sì, se fossi morto. Sì, quando sei morto vai nei fossi, capisci Milan? Se fossi morto sarebbe, comunque, i fossi. E poi i voti a quello come anche, no, quello della sinistra, come si chiama, Nichi Vendola. Vendola. Non mi interrompere Milan, lasciami parlare. No, è Vendola però. È Vendola, è Nichi Vendola, per cosa gli dai i voti al Nichi Vendola? Per far entrare i clandestini, tutti i negri, no, a casa nostra. No, dai, adesso, cosa c'entra? Non ho niente contro i negri, facciamoli anche entrare i negri a casa nostra, poi però non li lamentiamoci se c'è troppo lavoro nero, no, vado a chiedere allo scontrino a loro quando vengono la droga, no, a me quando prendo caffè, ma che luoghi comuni, Battista, dai, su, lasciami che sei uno di quei, tu sei uno di quei, no, degli amici a sinistra che sempre, che poi però hai capito Mila? Chiarissimo, adesso mi lascio che devo andare a produrre, io a lavorare, non come te che sei uno inattivo anche quando lavora, ecco. Ti saluto Mila, arrivederci Battista. Dopo aver dato la parola al nostro ascoltatore affezionato Battista, il grandissimo Battista, che è sempre affezionato alle nostre trasmissioni, invece noi vogliamo dare la voce a un nostro inviato che mandiamo normalmente nei luoghi tipici dell'estate, a vedere cosa succede in Italia in questo periodo. Andiamo a vedere dove si trova il nostro inviato Ratko. Buongiorno Manera, Milan e amici dei Radio 24, mille baci. Oggi mi trovo in una meta abituale per uno sabato d'estate, un classico per italiani come un Principe de Galles. E sarebbe dove si trova, Ratko? In coda. Come dice saggio, se in vacanza vuoi andare, lunga coda devi fare. E ultimo sbatte portiera. Manera, sono in giornata di traffico da Bolino Rosso, come i film che in piena notte guarda Alessandro Milan. Questo è vero. Poi arriva mattina in radio con calamari sotto occhi, sappiamo bene. Questi sono i gusti di Alessandro Milan che ormai abbiamo imparato a conoscere. Ma insomma. Figurati, a me n'ha dito e non solo dito. Ma lasciamo perdere questo. Però io pensavo che voi italiani siete un popolo incredibile, cioè voi avete fatto di tutto per combattere e per evitare comunismo, addirittura avete eletto Renzi, che più di questo è incredibile, eppure con code vi hanno fregato, perché voi fate coda per tutti, quelle che fate voi code farebbero impallidire qualsiasi burocrate sovietico di quelli vecchi, voi fate coda per tutto, in tangenziale fate coda, periodo dei saldi fate coda, per vedere concerto fate coda, andate a lavoro fate coda, andate a ferie fate coda, per pagare tasse fate coda, dico pagare non riscuotere, esce iPhone, fate coda, io ho conosciuto gente che mentre era in coda per iPhone 4 è uscito iPhone 5 e sono andati in panico perché non sapevano più che cazzo fare. Per esempio, Manera, sai perché quelle che durano un giorno voi chiamate... Ma mi sentite? Sì, certo, lo sentiamo, Ratko, lo sentiamo. Sentivo silenzio, ho detto, sono tutti morti là. No, stavamo ascoltando le sue parole, caro Ratko. È arrivato, i russi hanno messo bomba, non c'è più nessuno. Dicevo, per esempio, Manera e amici, sì. Sapete perché quelle che durano un giorno vengono chiamate gite fuori porta? No, non lo sappiamo, ce lo dica lei, Ratko. Semplice, perché là che passi tua giornata in coda sul pianerottolo fuori porta, là non ti muovi né uno millimetro, poi rientri a casa a sera e vedi che ti hanno svuotato appartamento, succede. Pensa perché anche sentite una conversazione tra due codanti. No, e cosa dicevano? Uno fa, dove la vado? È bello lei. L'altro fa, vado al lago. E lei? No, no, vado in montagna a sciare. Fai in agosto? Sì, ma sono uscito di casa a novembre. Ecco. E naturalmente non voglio parlare del Salerno. E quello è un classico, perché, insomma, no? Sì, è come sparare su Croce Rossa. Quelli che vanno in Salerno, Reggio Calabria, non pagano autostrada, ma pagano plateatico come bar, perché stanno fermo in strada per mesi. Io sono convinto che mafiosi non sono latitanti, sono solo in coda su Salerno, Reggio Calabria. E poi? Voi in autostrada fate coda per tutti, questi che voi chiamate questi lavori in corso, questa è una follia. Tu stai fermo ore e ore e poi cosa? Vedi il giardiniere che come Figaro sforbicia siepi. Rifate de continuo manto stradale. Ma io mi chiedo, ma che cazzo ci mettete al posto di asfalto polenta? Ma, non posso... ma dove si trova adesso di preciso, Ratko? Sono in autostrada 4, Lisert, vicino a uscita per Trieste. Volevo andare a Montenegro a trovare parenti anche io, dopo tanto tempo che non vedi. Ho comprato anche caramelle e cioccolato da portare ai nipotini. Sì, però secondo me era meglio se a loro compravo stecca di sigarette e bottiglie di Ballantines. Tanto ora che arriva saranno maggiorenni. Perché siete fermi da molto? Però hai voglia. Sono ore che siamo qua, tutti nervosi come animali. Ma sai quelli che bestemmiano di più chi sono? Quali sono, Ratko? Quelli dei pullman che vanno a Međugorje. Ma come quelli che vanno a Međugorje? Perché loro hanno tabella con giorni orari per apparizione a Međugorje. Se tu arrivi tardi, non vedi una Madonna! Va bene, grazie, Ratko. Ci risentiamo fra poco. Ci dirà come procede la sua avventura. Grazie, Ratko. Va bene, e dopo aver ascoltato le disavventure di Ratko sulla 4, che d'estate è sempre una delle autostrade più frequentate perché porta in Croazia, in Istria, in Slovenia, dove anche tanti italiani vanno in vacanza. Tu sei stato da quelle parti? Sì, sono stato a Rovigno. Anch'io sono stato a Rovigno. Ah, ma la stessa estate? No, non credo. Io tanti anni fa. Anch'io tanti anni fa. Mi ricordo che ero in un hotel anche abbastanza bello. Sull'Isola Rossa? Sull'Isola Rossa, anch'io. Però... Era vicino, no, ero proprio a Rovigno, io in città Rovigno. Ah, io no, io sull'Isola Rossa. Ero andato con la mia ex fidanzata. Ah, mannaggia. Quindi adesso parlare di Rovigno mi rievoca. È stato subito gettato nello sconforto, ho visto la faccia. Sì, Rovigno, eravamo andati perché ai tempi andare in vacanza là costava un po' meno, invece adesso credo che bene o male i prezzi siano uniformati, no? Credo proprio di sì, credo. Molti credo. Vanno in vacanza, diamo anche questo consiglio, andare in vacanza in Albania, perché pare che l'Albania sia molto bella e molto economica. Dicono che sia molto economica. Dicono che sia bella, non ci sono mai stato però in Albania. E si parla di Albania completamente diversa da quella di un po' di anni fa, quando tutta la politica, i blocchi dei vari paesi erano diversi, c'erano ancora i comunisti. In Italia c'erano politici anche, diciamo, più datati, più classici di quelli che conoscevamo tutti, quelli che sentiamo adesso nel carrello dei bolliti. Il carrello dei bolliti. Ma dico io, con tutti i posti che avevamo per andare in vacanza, ma proprio qui sul cocuzzolo della montagna in Molise, ma a chi facciamo un valore, ai Pianella? Ma non dovevamo andare all'isola del Giglio? Allora, intanto non è colpa mia se la Costa Concordia me l'hanno spostata a Genova. E comunque, ragazzi, questo è quello più a buon prezzo. Colazione, pranzo e cena compresi. Ci hanno fatto un prezzo di favore. Ecco, diciamo questa cosa. Ma un favore a chi? A chi te l'ha venduto? Invece di sparare minchiate, piuttosto, non c'è nessuno che porta le valigie in camera, non so, un facchino, un balilla, un ascaro! Ragazzo! Ragazzo! Ragazzi di tua sorella, avete finito di suonare? Ma dove pensate di stare? A Montecitorio? Ma cosa c'è per cena, scusi? Pane e acqua. A pranzo acqua e pane, mentre a colazione potete scegliere o acqua o pane. È una vergogna! Ma cos'è questo? Questo hotel? Un 2 stelle! Rosa, io ci avevo provato con i 5 stelle, ma mi hanno mandato tutti a fanculo. Allora, per favore, avete lasciato i documenti? Sì. Vi hanno preso le impronte? Sì. Pigliate tutti i cuscini Camella, Rosa 101. Signor Ignazio, diamo la 103. E al signor Romano la 208 che sta al terzo braccio. E la camera per Giulio? Allora, siccome non c'era più posto, io vi lascio qui e torno a riprendermi la prossima settimana. Sei un pezzo di merda! Volevate un po' di refrigerio e di un posto al fresco, ve l'ho trovata. Uomo, sei preoccupato per il tuo primo rapporto completo? Giovane, temi di non essere all'altezza della situazione? Hai paura di fallire subendo così lo scherno pesante della tua ragazza? Dimmi che nell'impatto il tuo organo sessuale si accartocci. Allora supera l'ansia da prestazione ingerendo prima del rapporto grandi quantità di Amaro Bellugi, il superalcolico pesante che fa superare ogni inibizione. Vasodilata in pochi minuti ogni cellula del tuo corpo e produce sul tuo lessico effetti sconosciuti, inducendo la tua lei, in caso di fallimento, a non criticarti, ma anzi a chiamare un'attrezzata ambulanza dotata anche di ossigeno Bellugi. Amaro Bellugi, e l'ansia da prestazione non c'è più, o almeno per un po' si dimentica. Platone, la caverna dell'informazione. Bentornati ancora a Platone, la caverna dell'informazione, e prima di sentire come procedono le avventure di Ratko abbiamo un piccolo scoop. I giorni scorsi ho intervistato una ragazza che ha partecipato alle famose cene di Arcore insieme a Silvio Berlusconi. Vediamo cosa ci ha detto. Noi oggi abbiamo un'esclusiva, abbiamo una ragazza che ha partecipato alle cene di Arcore, le famose cene eleganti, e questa ragazza ha accettato di portare la propria testimonianza qui a Platone. Buongiorno. Buongiorno a lei. Noi oggi le daremo un nome di fantasia, la chiameremo Esther. Che tra l'altro è il mio vero nome. Vabbè, è un caso. Esther, posso chiederle che lavoro fa? Sono un'imprenditrice, ho una ditta individuale. Che cosa produce? Produco piacere, come le colleghe che fanno il mio stesso lavoro, facciamo quello che le mogli con i mariti non vogliono più fare. E può farci un esempio? Allora, una settimana fa, ad esempio, ho avuto un cliente che si lamentava perché quando tornava a casa sua moglie non gli preparava mai niente da mangiare, allora mi sono spogliata e gli ho cucinato le lasagne. Posso chiederle cosa è successo dopo? Basta, gliel'ho messa in un pacchetto e poi sono tornata a casa. Ecco, però lei l'abbiamo invitata perché ha avuto a che fare anche con uomini molto conosciuti, dei politici. Ah, sì, se vuole arrivare alle cene di Arcore posso dirle sì, che ci sono stata. Come ci è arrivata? Allora, ho conosciuto Emilio Fede, che ci convocava tutti al CG4, facevamo i provini come meteorine. E poi eravate portate ad Arcore? No, non tutte, solo quelle che durante i provini come meteorine dicevano che c'era bel tempo, perché, sa, Silvio Berlusconi è un ottimista. E a quelle che dicevano che avrebbe piovuto cosa succedeva? Ah, venivano mandate al fratello di Silvio, Paolo. Quindi lei è arrivata ad Arcore facendo i provini come meteorina? Sì, ma non ero sola, Quella sera siamo arrivate in un pullman, saremmo state almeno una trentina, e siccome non c'erano abbastanza macchine siamo andate col pullman del Milan. Chi c'era sul pullman? Io, una trentina di altre ragazze, Emilio Fede e Tassotti che guidava. Anche Tassotti si è fermato ad Arcore? Sì, ma non è entrato in casa. Berlusconi non l'ha fatto entrare perché quella settimana il Milan aveva pareggiato col Chievo e allora Berlusconi gli ha fatto potare la siepe. Come si svolgevano le cene? Vorrei dire subito che le cene non erano come sono state descritte prima, erano cene eleganti. Il presidente continuava a raccontare barzellette, che erano barzellette vecchie, già sentite, quindi ridevamo tutte perché ce l'aveva detto Nicole Minetti. Poi dopo un po' rideva solo lui, finché alla fine c'era sempre qualche ragazza che si alzava e diceva «Basta, non ne posso più, te la do, almeno la smetti di dire stronzate». E le serate come proseguivano? Si scendeva tutti in discoteca, c'erano le maschere di tutti i calciatori del Milan, ognuno di noi ne prendeva una, poi si guardava tutti insieme una vecchia partita, Berlusconi faceva l'imitazione di Enrico Sacchi e poi la serata finiva. Lei mai ha avuto rapporti sessuali a pagamento col presidente? No. Però una volta gli ho spolverato lo studio. Diceva che Veronica Lario non lo faceva mai e poi per ringraziarmi mi ha dato 20.000 euro. Un'ultima domanda. Ha mai incontrato a quelle cene la famosa Ruby? Sì, l'ho incontrata. Una sera c'era anche lei, ma quando il presidente ha cominciato a raccontare le barzellette lei è uscita. Poi quando la serata è finita l'abbiamo trovata fuori che stava limonando con Tassotti. E il presidente si è arrabbiato? Sì, perché la siepe non era stata potata bene. Grazie. Arrivederci. E queste sono le parole che ci ha detto Esther, nome inventato, ma poi abbiamo scoperto essere anche in realtà il vero nome di questa ragazza. Però noi prima avevamo lasciato Ratko in coda sulla A4. Ci sente Ratko? Certo, e qua mi trovate ancora Manera, me nome ho spostato di 1 millimetro. Se qualcuno ci viene a dire che noi Rom siamo nomadi ci sputi in un occhio. Ma la siamo talmente fermi, compresi, che non mi posso permettere neanche una erezione. Almeno io, magari a te e Milan sì, forse avanza anche posto. Una cosa però, pensavo, ma visto che avete questo problema dei carceri affollati, che io ho tanti parenti dentro, ma perché non mettete detenuti su A4? Altro che arresti domiciliari, arresti autostradali, ma questi sì che funzionano. Non serve neanche braccialetto elettronico. Tanto dove cazzo scappi? Anzi, sai cosa? E te dirò di più, si potrebbe anche fare uno business. Quale sarebbe questo business, Ratko? Ma sai che a semafori ci sono quelli che te lavano vetro, certo, giusto? Certo, sì. Ebbene, finché tu sei fermo a Barberino del Mugello, noi te possiamo offrire pulizia dei caldai e lavaggio intestinale, non è una brutta cosa. E comunque, secondo me, anche presi con spirito giusto, anche coda può avere i suoi vantaggi. Per esempio, adesso qua che siamo fermi abbiamo organizzato uno torneo del calcetto, abbiamo fatto nazionali, e sai che qua adesso però nazionali noi non si riconoscono da divisa, da maglietta, pantaloncini, no, ma da calzature, cioè italiani capisci perché sono quelli che hanno scarpe firmate, spagnoli giocano con espadrillas, tedeschi hanno sandali con calzini. E comunque secondo me almeno questa volta vinceranno olandesi, visto zoccoli di legno che portano. E poi, e qua voglio parlare a te Calo Milan, che tu che sei uno ragazzo facile, io ti posso dire che in coda si possono fare anche ottime conquiste. Ma sai che io veramente ho tacchinato più turisti tedeschi in autostrada in coda che in posti di mare. Anche perché ora che arrivano a destinazione sono già in menopausa con calo del desiderio. Invece qua fai prima. E comunque, cari amici, Milan e Manera, peggiore cosa da fare quando viaggi è dire, ma sì, pipì, faccio prossimo autogrill. È complicato, c'è sempre sì, coda. Perché sai cosa succede? Che come fai prima curva, ti trovi in una coda infinita, eterna. E quando guardi i modelli che sono fermi vicino a tua macchina, e vedi Simca 1000, Fiat 127, Ford Capri, Prince NSU, capisci che sono là da prima decaduta del muro di Berlino. E non ve ne andrete, secondo me, neanche dopo le Olimpiadi del Brasile. Allora, uno consiglio posso dare a queste certo, persone. Può darlo, Ratko. Consiglio di Ratko. A uno che succede questo è piscia. Fai questo atto liberatorio, pisciate sotto e fallo con sorriso di beatificazia. Tu vicino dal finestrino devi capire, tu, da tua espressione di gioia, ti guarderà e penserà, ma quello sta pisciando. E io, cretino, che mi sono... hanno dato pisello per trattenere e piscerà anche lui e così farà vicino di vicino e vicino del suo vicino e in questo effetto domino si creerà un fiume di urina comune, vedrete che bello, perché in coda vi sentirete meno soli e con più calore, almeno dentro a mutande. Ciao amici! È una immagine disgustosa, Ratko, quella che ci ha dato, terribile. Abbastanza disgustosa. Pensa quanti ci stanno ascoltando, magari stanno facendo la coda adesso. La coda. E lo prendono letteralmente in parola. È una delle cose belle dell'estate, la coda, secondo me. Perché poi quando... pensavo pisciarsi no. Quello non lo faccio più da un po' di anni, devo dire. Però ogni tanto nel letto dava soddisfazione da bambino, no? Sì. Perché avevi l'idea che qualcuno si occupasse di te. Dice, io posso anche fare pipì nel letto, che tanto poi arriva, mamma, c'è la mamma papà, che pulisce. E questa è la cosa più bella che ti possa capitare nella vita, avere qualcuno che si occupa di te. Ti piace questa idea? Per questo bisogna pisciarsi addosso. Secondo me sì. Ma hai visto di che argomenti importanti ci occupiamo? Infatti, qui qua facciamo cultura. Facciamo cultura con una notizia che ci dai tu così densa. No, è una notizia se vuoi, di costume. Pensa, Leonardo, che ci sono ancora in Italia 41 club, lo raccontava Libero la scorsa settimana, che sono vietati alle donne. Ma per quale motivo? Ma perché così, per storia, per tradizione, per costume, perché sono nati così e così e così rimangono, tengono duro. Per esempio c'è il circolo della caccia a Roma, o il circolo degli scacchi, o il circolo canottieri di Aniene, ma il più antico è il circolo degli Uniti di Siena del 1657. Cosa fanno al circolo degli Uniti? Stanno uniti, non lo so, faranno, non lo so, socializzazione. Ce n'era uno, gli scacchi, ma perché le donne non giocano a scacchi? Ma in realtà non è vero, cioè poche donne. Io ho sempre visto uomini giocare a scacchi, anche nei bar dove ci sono quei tavolini che hanno la forma di una scacchiera. Perché è noioso. È noioso come sport. Lo scacco è noioso. Scacco quindi noi, essendo più noiosi, ma te ne vedi le donne in silenzio che giocano a scacchi? Le donne chiacchierano. È un gioco un po' amaro anche. Si sta lì in silenzio a muovere la tua pedina. Il trionfo dell'amarezza. Guarda che in realtà è un trionfo dell'intelligenza. Ma per carità, io ho vinto una medaglia giocando a scacchi. Allora non è il trionfo dell'intelligenza. Dobbiamo rettificare subito. Gli scacchi è uno sport come gli altri. Io da bambino, siccome mio padre una sera quando ero bambino tornò a casa con un regalo. Io pensavo che fossero dei giocattoli, soldatini, macchinini. No, grande regalo, ho preso la scacchiera che i miei genitori hanno ancora. E lì, e io avevo 7-8 anni, mi insegnò a giocare a scacchi. All'inizio non mi piacque per nulla, ma poi cominciai Ho vinto una medaglia. Quindi sono un discreto giocatore di scacchi, anche se non gioco più ormai da 40 anni circa. Ottimo, da 40 anni. Sì, avevo 7-8 anni. Hai vinto una medaglia a 8 anni. Sì, sì. Si sta lì a giocare a scacchi, ognuno è concentrato sui propri pezzi e ci si allontana dalle cose importanti della vita, per esempio dalla religione, per concentrarsi sempre di più sulla vita materiale. Noi abbiamo un ospite che ci viene a trovare spesso qui a Platone, che è Don Danilo. Allora, cosa ne pensa dell'allontanamento dell'uomo dalla religione? È un errore che l'uomo fa, Manera. È vero che la società con le sue tentazioni non aiuta, è una società che mette in risalto l'avere più che l'essere. Auto del lusso, telefonini sempre voluti, quasi a voler sentirsi Dio. Pubblicità in cui si vedono queste case da sogno che portano alla frustrazione l'uomo, perché non te le potrai mai permettere. Certo, come l'attico di 700 metri del Cardinal Bertone, per esempio. C'è una nota polemica in questa sua precisazione, Manera. Comunque è vero, non possiamo nasconderlo. Magari se potesse ovviare a questi privilegi terreni concessi a qualche pecorella, anzi più che pecorella direi a qualche pecorone smarrito del nostro clero. Se le persone si sono allontanate è colpa di alcuni dei nostri confratelli che si sono dimenticati del Signore. Ebbene, io spero che questi confratelli possano raggiungerlo il Signore, al più presto il Signore, lasciando così posto a guide più rette, gioiose e leali, perché sarà d'accordo con me, il gregge ha bisogno di un pastore che lo sappia condurre, un pastore buono, giusto? Ma anche se è vero quando serve. Cioè, quello che vorrei dire, caro Manera, ai tempi di Torquemada questo non sarebbe successo. Lei sta dicendo che tornerebbe ai tempi dell'Inquisizione. A quei tempi io tornerei solo come momento storico. Vabbè. Questo anche se bisogna ammettere che un po' di calore non ha mai fatto male a nessuno. Ma il bello di quel periodo sono stati certi usi che si facevano. Per esempio, non si aveva paura, come oggi, di tutti questi stranieri che vengono qua con la presunzione di voler costruire i luoghi di culto, i loro luoghi, perché gli infedeli si allontanavano come si allontanavano con olio bollente. Non si aveva paura, per esempio, dell'infedeltà della moglie, perché c'era la cintura di castità. Se c'era qualcosa che non andava, il marito non te lo comunicava attraverso, come si fa oggi, con WhatsApp. No? Te corcava de mazzate e così si risolvevano i problemi, senza finire davanti a un divorzio che è la morte della coppia. Sì, ma con le mazzate spesso moriva la donna. È vero, non bisogna dimenticarsi di questo, ma non bisogna dimenticare che di fronte al Signore è meglio un vedovo che un divorziato. Va bene, ringraziamo Don Danilo, che è sempre molto moderato, diciamo, nelle sue opinioni. Una gioia nel cuore, sempre. Una gioia sempre. Nel cuore. Grazie Don Danilo. Grazie. Però insomma siamo in un periodo di vacanza, quindi Ale, ho visto che tu hai trovato un articolo interessante che riguarda proprio le vacanze. Di cosa parla? In realtà parla delle fobie che possono scatenare le vacanze. Io non pensavo che potesse essere un periodo solo di spensieratezza, invece ci sono dei medici che dicono attenzione, per esempio potreste avere la limnofobia. Caspita, cos'è la limnofobia? È la paura dei laghi. È bella da dire, limnofobia. Ti piace, oppure la talassofobia. La talasso è la paura delle terme, no? Per il mare. Si fa la talassoterapia. Oppure la rupofobia. Rupofobia. La paura dello sporco, quindi il terrore è molto diffusa. Volere che sia tutto. Vai in vacanze e continui a pulire tutto perché hai paura dei batteri, della anisakis. Cioè, che l'anisakis ne abbiamo parlato. questo parassita che poi quella volta penetra nelle tue carni e ti fa morire dissanguato. Mannaggia. Poi vabbè, c'è l'arachnofobia, magari se vai. La paura dei ragni. Arachnofobia. Nelle foreste pluviali dell'Amazzonia. E poi attenzione, c'è la Mottefobia con la M di Milano? Sì, esatto. Che cos'è la mottefobia? La paura delle farfalle notturne. Questa non l'ho mai sentita. C'è gente che ha paura delle farfalle notturne. E le falene, sai queste cose. Poi c'è l'ofidiofobia o la scolecifobia. Terribili. Fanno paura già Eccolo le qua, parole. Questa è la anasakis, perché la paura dei vermi, la scolecifobia. È un po' un verme, no? Sì, è un parassita, è un vermicello simpatico che si annida nelle viscere del tonno, per Oppure, lo più. Oppure l'ofidiofobia è la paura dei serpenti. Va bene. Vedi, qui vedo anche una foto di una bella ragazza di schiena. Sì, è la gimnofobia, la paura di essere nudi o del nudo altrui, quindi non puoi andare in una spiaggia di nudisti. La gimnofobia. Sono bellissime queste cose. Sì, assolutamente. E per finire con? C'è la paura di non essere più popolari sui social network e essere ignorati dal web. Credo la coglionofobia, questa potremmo definirla. Sai che io adesso ho anche l'account Twitter, ma non Platone24, ma dillo che Platone24 siamo su Twitter. Platone24 è l'account Twitter. E poi ti viene la fobia di essere abbandonato. E poi abbiamo anche l'indirizzo indirizzo di posta elettronica, certo, che è platone@radio24.it. Sì, oppure platone@radio24.it. Se volete essere più moderni, ecco. Vabbè. Ma scriveteci anche, mandateci qualche cosa, scriveteci qualcosa di carino. Noi siamo qui due uomini soli in studio, quindi mandateci qualche mail carina che ci faccia assaporare il gusto dell'estate. Se diciamo ci scrive così. Laura Pausini, per esempio, noi sì, siamo felici. No. Ma per parlare di fobie, chi meglio di un medico di pronto soccorso? È vero. Allora, eccolo qui, è il professor dottor Mazza. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a lei, Milan. Sono qui per parlare dei problemi della sanità. La vita è una lotta continua contro le malattie, ma nella sanità i soldi pubblici sono finiti, dobbiamo autofinanziarci. Perciò quando parenti e amici vengono a trovare i pazienti all'ospedale per vederli, gli facciamo pagare il biglietto con tariffe differenziate. Ma no. 5 euro, visione del paziente da lontano senza colloquio. 10 euro, visione da vicino con colloquio breve. 15 euro, seduta sul lettino del paziente con colloquio lungo. 20 euro, passaggio del medico in silenzio. 25 euro, passaggio del medico che dà notizie rassicuranti. Sì. 30 euro, pacchetto completo con comparsa che finge decesso nel corridoio. No, come finge? Adesso, finge decesso addirittura. I pazienti non li possiamo curare tutti. Per decidere chi curare facciamo un quiz. Si chiama chi vuole essere primario. Ah. Il vincitore viene curato, gli altri vengono affidati alla caposala che è di Roma, ma è soprannominata Napoli, a causa del famoso proverbio, vedi Napoli. Aia! E poi muori. No, ma dai, esatto, su, dai. Alle vecchie che vengono con problemi di circolazione non facciamo il Doppler. Le leghiamo e le appendiamo a testa in giù in infermeria, così il sangue scorre meglio. Ah. Loro svengono, non rompono i coglioni. Beh, mamma mia. Poi alcuni ci provano gusto, tornano a farsi fare bondage. C'è l'angiologo che se ne è già fatte 7. L'ultima era una bella signora di 80 anni col seno che le spuntava da sotto la gonna. Ma no, dai, che immagine repellente, dottor Mazza. Il problema, caro Milan, è che essendo così anziane, quando dicono mi fai morire, a volte succede davvero. Da quando si è rotto lo sfignomanometro per misurare la pressione, usiamo un metodo alternativo. Sì. Prendiamo il paziente e gli facciamo un bel taglio nel braccio. No, ma com'è? Se il sangue schizza forte, il paziente ha la pressione alta. Dai. Schizza piano, la pressione bassa. Se non schizza, ne abbiamo fatto uscire troppo. Se il sangue schizza fortissimo, lo utilizziamo per ridipingere l'infermeria. Ma no, ma il problema, dottor, è che per dare la seconda mano ci vuole un altro paziente con lo stesso gruppo sanguigno. Però funziona meglio del Ducotone. Mamma mia. La saluto, Milan. La saluto anch'io, però. Al pronto soccorso ci vengo a trovare. Sì, sicuro, come sempre il mio posto è lì. Problema sempre a disposizione. A disposizione. Correrò lì, correrò. Arrivederci, dottor Mazza. La aspetto. Grazie. Questo era il dottor Mazza che ci ha raccontato di alcune delle pratiche che fanno al pronto soccorso. Noi invece ci fermiamo per il traffico, ma riprendiamo fra poco con il nostro gioco della parola intrusa. Uomo, hai una pancia esuberante che ormai ti mette a disagio anche con la donna meno esigente? Ti senti in imbarazzo ogni volta che ti guardano l'ombelico? Allora prova la pancera del dottor Bellugi, la pancera tipo Gibot, ma fabbricata in canapa grezza, che stimola per irritazione tutte le cellule del tuo adipe, favorendo così il microcircolo cellulare. Cinture del dottor Bellugi contiene la pancia, stimola un sudore eccessivo e produce irritazione in ogni cellula del tuo giro vita, obbligandoti a un rapido dimagrimento. Cintura del dottor Bellugi, il prurito buono. Platone, la caverna dell'informazione. Siamo sempre qui con Alessandro Milan per commentare un po' le notizie, per parlare con alcuni dei personaggi che quotidianamente, settimanalmente ci vengono a trovare. Ma adesso, prima di proseguire con le notizie e con gli ospiti, noi ogni settimana abbiamo un gioco della parola intrusa, dove c'è il nostro Danilo Vizzini che canta a cappella, cioè senza base musicale, delle nostalgico degli anni 60. Nostalgico degli anni 60, sì. Una strofa di una canzone con una parola intrusa, sbagliata. Voi dovete individuare qual è la parola sbagliata e poi scrivere a platone@radio24.it, oppure potete anche utilizzare il nostro account Twitter che è platone24, sempre preceduto dalla chiocciolina, volendo, giusto Ale? Assolutamente sì, volendo. L'importante è sapere che voi ci siete e che partecipate con noi, giusto per giocare e sentirsi vicini in questa estate 2014. Su, dai, basta parole, combinate qualcosa. Siete come tutti gli uomini che parlano e poi non concludono niente. È inutile negarlo. E allora cantiamo. Allora, sentiamo qual è la notizia, la canzone. Ti voglio cullare, cullare, e posandoti sull'onda del mare, legandoti alla cruna d'un ago, così tu e nella nebbia più fuggir non potrai, e accanto a me tu resterai. Va bene, visto questa grazie. È la canzone, dovete individuare qual è la parte sbagliata e scrivercelo, visto che siamo in tema di canzoni. Ne faccio una anch'io veloce così a cappella, giusto per dare anche una nota musicale al nostro Platone. La canzone è la seguente: viene un'amica a dormire da me, siamo soltanto amici però, sogno di farmela già da un bel po', ma lei mi guarda e poi dice no, finita. Una canzone breve, cioè, perché lei dice no, quindi questa non è a cappella. Dice no. Va bene, allora succedono sempre delle cose, noi nel mondo, in Italia, ovunque, e il bello è che noi riusciamo sempre a metterci in contatto con qualcuno che ha avuto da vicino a che fare con questi fatti che succedono, insomma, una specie di inviati speciali particolari. Per esempio, a Napoli è stato arrestato per detenzione di droga una persona che veniva trovata con 2000 dosi di marijuana in casa, quindi non poche direi. Nel corso di controlli dell'antidroga, grazie a una soffiata, i militari hanno arrestato un 37enne con 3,5 kg di marijuana e nonché un bilancino di precisione. Ma sentiamo cosa ha da dirci, noi ce l'abbiamo qui in linea, il vicino di casa di questo presunto spacciatore. Allora abbiamo qui con noi al telefono il signor... No, uomo, no crai. La vedo di buon umore. Senta, signor No Cry, la chiamerò così. Sì. Saranno gli effetti. Vabbè. Lei ha mai avuto qualche sospetto sul suo vicino? No, nessun sospetto. No, nessun sospetto. No, nessun sospetto. No, abbiamo capito. Sì. Abbiamo capito. Senta, signor No Cry, è vero che... Mm-hmm. Ah, lei ha detto, io la chiamo così perché non mi ha detto il suo nome. È vero che sono in molti nel suo quartiere a fare uso di stupefacenti? No. No. No. A me sta venendo un dubbio. Mi sta venendo un piccolo dubbio. Non è che qualcosina l'ha fumata anche lei? No. No, no, assolutamente. No, no, no. Niente. È una bella intervista, veramente, guardi. Oh, mio. Piena di particolari. Senta, sembra che comunque il suo vicino, quello arrestato con tutta quella grande quantità di marijuana, si rifornisse di droga dalla malavita locale. Lei che lo conosceva bene, non è che può farci così qualche nome? Oscar Giannino. No, come Oscar Giannino? Cosa c'entra Oscar Giannino? Ma no, cosa c'entra? Una persona integerrima. Senta, vuole lasciare un messaggio ai nostri radioascoltatori contro la droga? Serio? Oh, serio, una cosa seria. Ci dica finalmente una cosa seria contro la droga. Lei che ha avuto come vicino di casa, insomma, uno spacciatore, quindi probabilmente ha visto anche gli effetti negativi della droga rispetto a quelli che andavano a rifornirsi da lui. Vuole darci un messaggio serio? Un attimo. Oh. Di droga si muore. Ma il mio vicino ci viveva benissimo. Bene, io chiuderei qui il collegamento perché mi sembra che molto oltre non si possa andare. Non è questo il messaggio che avremmo voluto dare, insomma, ma questo è quello che ci è arrivato e quindi ci scusiamo con i nostri radioascoltatori. Hai visto, Ale, questo insomma personaggio non, che... Non era questo il messaggio, però insomma siamo nel cuore della cronaca, dei fatti di cronaca. Quindi, siamo nel cuore dei fatti di cronaca. D'estate molti eccedono con quel tipo di sostanze, molti sono in vacanza, alcuni altri restano a casa. D'inverno e... invece no, eh. No, inverno ci sono meno persone in vacanza. Ah, ecco. Però d'estate ci sono anche alcuni che continuano a guardare la televisione. La TV, ma certo, ci sono quelli che imperterriti anche d'estate guardano la TV, anzi si lamentano perché dicono la TV, la qualità della TV d'estate magari. E allora noi a questo proposito abbiamo il nostro grandissimo critico e storico della televisione. Sommo, oserei dire, il nostro professor Limoncelli. Buongiorno, professor Limoncelli. Ma buongiorno a voi, anche oggi sono qui controvoglia, assolutamente disinteressato a quello di cui sta state parlando. Ah, ecco. Capisce? Comunque, avevo promesso che avrei partecipato, quindi partecipo appunto contro voglia. Benissimo. Cosa possiamo dire questa settimana? Ma guardi, riguardo a cosa? Riguardo alla televisione. Alla televisione estiva, certo. Sì, ma diciamo che la televisione estiva si caratterizza per l'utenza potenziale che non si implementa in modo quasi epidemiologico, ma che anzi persegue la puntuale corrispondenza tra obiettivi e risorse, porta avanti un corretto rapporto tra struttura e sovrastruttura nell'interesse delle classi dirigenti, ma nel danno ipertrofico dell'utenza a monte a valle della situazione contingente. Cioè, in pratica? Ma in pratica non significa assolutamente nulla. Ah. Ho detto un mucchio di stronzate, un camion di scempiaggini. Ma mi gratifica il fatto che voi stiate lì ad ascoltarle pendendo dalle mie labbra. Mi gratifica che voi ascoltiate il professor Limoncelli, grande storico e critico televisivo, nonché grande uomo di cultura. Certo. Dirò anche delle parole a caso, ma di grande effetto. Superfetazione, crasi, sesquipedale, undulipolo. Undulipolo. Lei sa cosa vuol dire? Undulipolo. No. Lei che dovrebbe essere un giornalista. Undulipolo. Di cultura. No. Non vuol dire assolutamente niente, l'ho inventata io adesso, ma è di grande effetto. Effettivamente. Sono una persona di cultura, undulipolo. Undulipolo. Dica anche lei la mattina se vuole fare bella figura con i suoi ascoltatori. Lo farò. Tra l'altro non capisco il motivo, non capisco perché l'ascolti. Ah, ecco. Ma dopo che dirò undulipolo vedrà. Ma naturalmente cambierà tutto. Comunque, professore, noi le chiediamo come sta durante l'anno, per quale trasmissione vale o non vale la pena pagare il canone. Allora, ecco. Non vale la pena pagare il canone per Ballarò, trasmissione che rappresenta un incresciuto gioco delle parti, politici di destra e di sinistra che parlano e parlano senza concludere nulla, mentre Sagunto viene messo a ferro a fuoco. Sagunto. Ballarò vale la pena di essere guardata solo quando è presente qualcuno delle signorine smanrappate che hanno partecipato a vario titolo a qualcuno delle cene eleganti con Silvio Berlusconi, in modo che le si possa immaginare travestite, pronte per eseguire i più piccanti giochi erotici, magari completamente nude, con la maschera di Ronaldinho. So che è lei, Milan, per appunto tifoso del Milan, una ipotesi del genere attiva particolarmente. Beh, effettivamente, vabbè, abbiamo capito. La Ballarò, che era di Ronaldinho piuttosto che adesso quella di Balotelli. Vabbè, che immagine, professore. Invece per cosa vale la pena pagarlo questo canone? Ma vale la pena pagare il canone per il remake di Colpo Grosso che ho proprio visto ieri su una piccola emittente del digitale terrestre, sì. Tele Eros 69 non è un caso, che si chiama così proprio perché tutte le ragazze in questo remake di Colpo Grosso sono delle belle smandrappate, particolarmente dotate, che al posto del seno hanno due vere bombe, sono delle vere bombardiere. E bombardiere. E cosa fanno il remake di Colpo Grosso, quello di Smaila? Ma no? Naturalmente, l'unica differenza è che qui il gioco non c'è. Viene fatta una domanda all'inizio e poi qualsiasi sia la risposta dei concorrenti, le ragazze si spogliano per tutta la puntata, una dopo l'altra. E vabbè, dove starebbe il canone, mi scusi? Nel fatto che i telespettatori possono telefonare da casa e quelli che prendono la linea pagando possono indicare per primi quale ragazza vogliono vedere spogliare. Una trasmissione molto educativa. Molto educativa. Perché sarebbe educativa? Perché dimostra che di questi tempi non conta la cultura, ma il denaro che possiede, che è esattamente lo specchio dei nostri tempi. Ricordate, Tele Eros 69. Va bene, professore, senta, la ringrazio. Io telefono sempre, dico prima la bruna con gli occhi chiari, poi la bionda, la rossa e così via. Guardate anche voi Tele Eros, anche lei Milan. Sì, lo farò. Tele Eros 69. Pedale, un tulipolo, crasi, cultura. E allora anche oggi siamo arrivati alla fine di Platone e ringraziamo Fabio Cantadori in regia, Danilo Vizzini e Luca Clobas che hanno partecipato con noi, naturalmente Alessandro Milan. Grazie, vi ricordo che anche la domenica alle 18 siamo in replica. Siamo in replica anche la domenica alle 18 e noi invece vi diamo appuntamento come sempre a sabato prossimo fissi per le 9.